Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia e grazie anche a tutti gli ascoltatori che affettuosamente ci hanno scritto in questi tempi. Fra questi mi rivolgo in particolare ad un ascoltatore che ci ha mandato alcune annotazioni sue su Backofen, che mi interesserebbe molto leggere, ma che ahimè i nostri computer non sono stati in grado di potercelo fare. Se può rimediare in qualche maniera, rimaniamo in attesa. Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci a tutti e la replica naturalmente mercoledì notte alle verso le 2. Verso 2. No, verso l'una, scusate.